lei, Morbitta sì, a piedi a muglio gioco. Ah, Morbitto, con i piedi a muglio. Ehi, come ti sei tu a piedi a muglio? Uffo. Ehi, io buoni sono gli asparagi. Boh, e chi li ha mangiati? Ah, non li hai mangiati, domani te li mangi. Sicuro sono buoni perché sono, ce ne sono grossi anche. Già l'ho visto già, cazzo, ti sei affatto rovento, ma vuol dire, domani fate il tempo vero. Così è Gianmarco? Ehi, 800 km all'ora hai detto, che se più. Ciao Luca. Ciao Gianmarco, e allora, ho fatto bene andare oggi. Siccome mi hanno fatto bidone, un tipo ieri mi stava assillando, mi hanno fatto il bidone, stamattina alle 8:10 mi ha mandato un messaggio che non veniva. Ho detto, chiatta, bubu, ma qual è la ditta a me di non fargli i bidoni? Poi ho chiamato un altro, sì, vengo io. È venuto quest'altro. E siamo andati a fare un po' di asparagi. Mi ha fatto più o meno quanto a me. E non hai fatto vero. E domani mi sa che fai tempo vero, boh. Hai fatto benissimo. Adesso ci vado anche lunedì. Se fa bel tempo ti conviene, guarda che se ne fai un bel, ti vuoi burguindimi un poco, magari una parte te la tiri per mangiare. Vabbè, certo. Hai visto le rare vendenne su internet, un mazzo di due di nuda a 5 euro, chi se è macca di tutto. E che forse a caso, Senta, non so che uno andia a regalarlo. Pare così, ma forse è caldo, fate a dire, ma poi buca che cosa hanno. Gio Mario, abbiamo fatto, prima di farli, una bella camminata, longa. Salire su e camminare in mezzo alla campagna con le pietre. Metti di brida minorita, ti fai a camminare a mari. E poi c'avevo tutte le scarpe inzuppate. C'avevo le antifortunistiche, non riuscivo più a camminare. E poi tutto, come si dice, tutte le mani graffiate, anche con i guanti mi entravano le spine. Un po' più zotto, mi non finivo così, ero la ciappi, tutto zotto. Perché quando va a questi posti così, specialmente che dove l'erba è bagnata, la terra è infusa, poi la cazzo buggineva, io mi mettevo sempre gli stivali. E mi portavo i guanti, quelli grossi, e a chi non rotti facciare male, e il giubbotto, un giubbotto vecchio, a chi quando si trave la mano a tirarlo, i pini si agganzavano, ma comunque si tagliava tutto il giubbotto, ma non me ne affuttia. Già lo so, grazie, vabbè, te l'ho fatto un po', dai. E tu adesso che lo sai, portati gli stivali, ti metti gli stivali, cazzo non vogliamo fare gli stivali, ma contani, sei ieri in piazzetta. Sì, che ne ho, io a Puglia, ne avevo 2 o 3 paia, ce li ho. Però con gli stivali, la tua sopra minimale, però non ti bagni i piedi, vabbè. E lo mangiate, c'è scuola. In macchina nel cofano, va via. Stivali, giubbotto vecchio, tutta balleva quella antiacqua, cappello di antiacqua, giacco, tutto dentro una borsa c'aveva. Se mi capitava l'occasione, si andava sempre mi sa roba in alto. E andavo. E lo prendo. Domani, avevo domani. La passo razzo. Tu andavi domani. Non ho capito, ero un po' disattento, stavo guardando un'altra cosa. Che io e Massa mi portavo tutto del ricambio, non si sappia mai, magari quando c'era a travagliare, vedia niente, o per il gioco, per una sparaggia, mi fermavo e andavo anche io. E mi ci infilavo con la roba se stava piovendo, per dire, capito? Guarda che io non mi sono guardato mai a sparare, mai, Mai mi sono andato. Boh. Non mi giunta mai la canda a 6 anni. Se mi immaginate. Ma fino ad ancora un ma. Prima pare che mi piace un bel amore, invece non mi piace più. Forse a chi l'ha mangiato troppo. Già è buono, magari ne hai mangiato troppo quel periodo. e ti nega un altro, è come tutte le cose, quando mangi spesso una cosa, poi ti ne basta la gara. È possibile non ti piace di. Però, no, io già sono sempre andato. Se mi capitava l'occasione andare via, sempre. E ne vado a Burumbè un bel anno fa, anche vicino in campagna. Andavi la danca che era tutta imparata, tutte i paesi in mezzo all'elba, pare a un rio, pare in leva a giorno, e ne facciamo un bel. Ma il sole c'è buon arrivi, in mezzo ai boscagli, che ve ne sarà un bel. Però magari scaggio, è a seccato senza. Oppure a Pontifica, arrivi, dai Rubaccini in poi verso Pontificare, infatti vera meno milto e tutto macci e mi viene senz'altro di questa cosa, chi si va a sale di Pontificare non li seccare, capito? Da già sarei andare. Oh, c'è l'amica di mia figlia che sai bene spesso qua a casa, è di Pontificare. E lo va buona, ne vado a borsone, ne vado. E anche i funghi fanno il bosco lì. Ma mi l'ha dato a me, mi l'ha regalato. I funghi buoni, a vanno mi ha messo che tipo di fungo era. Ma buono davvero, vedi che ha due saporiti. E così ci sono lo stesso. Gli asparagi. Ne faccio un bel. So che è zona di asparagi, capito? E mezzo al milto i chivi, gatta. O se non dopo il milto i chivi, gatta, hai fasciatura. Mi sono andato bolognando a fatio e ci fa via un ricordo, ci fa via. A boccioli non fa via un ricordo, da un milto. E anche il padre di amica mia figlia. No, mio, e poi ce lo prendi giù. Riprendi Luca, me ne levo questi denti che ci ho scritto. Sì, un tempo in tempo stavo bevendo. Sì, ma Giovanni ti fa anche una passeggiata, dai, già è bello, solo che ti pungi un bel, troppo. Infatti mi fanno male due dita perché mi è entrato proprio dove c'è l'unghia, la spina dentro. E mi fa un bel male. Magari di chi lo fa te, ma è a confine, ragazzi, fa una bella sintassi, cosa fai in casa? Lampato. Ah, ti che cosa va a casa di fai, capito, ecco, lì c'è il punto, io ripeto, non mi sono andato mai a dire la verità a Paris, mai, qualche volta mi è capitato da già quattro sicomaci nella campagna, però non era collia, ma proprio a seccare la porta mi sono comandato anche a essere sincero, ecco, da Giuseppe Corporato e così via, però vai a lampare di casa, dai, allora come a casa e poi devo due altri fatti, la ciappa bene, lo vedi, che c'è anche cosa, vedi, no? Fanno il lampato nel tuo casa, capito? Io guardo, non mi ritrovo nel tuo casa, capito? È chiesto. Vabbè, solo che poi uno quando mi ritrovi, come fare il bidone. E poi ad 8 minuti mi mandi un messaggio che non vieni. Ma vai, fatta la persona. Quello non ci sarà. Perché con me. Vabbè, ok. Penso, caso quasi venga di già coperto uscire. Ma come si paga. Anche quella bicicletta tua, poi sì, si non travaglia, no? È una passeggiata così. A casa si risente tutto. Lei solo la domenica e di sabato no, lavora. Vabbè, se lavora è un altro discorso, ma per dire no, se una senza fa niente, sei un pari passi niente e rivedi qualche cosa, capito? È una cosa sempre che si può fare, mi dico, quando uno è giovane che può camminare, sei più, oi, non ve la posso più a camminare io, no. A far camminare vicino, non riesco più, per carità, ragazzi, mentre facevo stare un quattro ore da magazzino a casa, mi puoi immaginare, sì, devo andare in paradiso, oi, no, magari mi viene la gara, ah, se me ne comporrei, certo, attungiava ogni luni a piazza dei segni, a piazza dei segni, a già cantumine fendenti, a tromati, niente, capito? Un giovane è senza fare niente di cooperatà, ma non ci ha lampato, capito? Avviro? Sai cosa è? Che c'era molta gente anche, c'erano un po' di macchine, sempre lì, che avanti. Avviro? Avviro, mucaruru. E da tanto, Luca. Ebbene, mu... E allora, tutto bene. Tu non ci vai a sparare? Negativo. Sì, bravo, sì. Non ho il tempo, Luca, a parte sono senza macchina io. Ah, ho capito. No, Giuseppe, se vai, trovi il povero e ti vendi, sono quei soldi. Avendo la possibilità di avere la macchina, sì, sarei andato in lì. Però, quando non c'è la macchina, cosa cazzo fai? Non ne hai macchina. Negativo. Ah, vedi, addio, sì. Ah, vedi. Già fa bene a camminare a piedi, mio marito, che la dottoressa me l'ha detto. Si faccia le camminate, signor Pinna, se vuole, le vuole scendere un po' quella pancia. A parte gli ho detto mi fa male la gamba, e poi non ho la voglia sua. Ma... vabbè, se ci devo un po' camminare. È odiata, un saranno. Fatta a seccare questa cosa, devi camminare, devi camminare. Che se là che non sono a posto, non è che, vabbè, magari fai un po' di baci e ti posi, la poi te lo pizza e altri secchi, e così via. Gli altri per tutta la dirippa, così che però sempre che sia bella giornata, là. Senti, se prendevano, non correvano. Ui, domani lascio perdere. E te lo sai, te l'ho detto che io sono stato operato al menisco, no? E allora, come cambia il tempo, cazzo mi pare, mi fa male il doppio, hai capito? C'è un tiro allora, Giuseppe. Però mai avrei Luca bello più in parte, le gambe se li ha posto, tranquillo, può fare quello che vuole. Quando le gambe a posto, lo sai, che non rifiuto mai io, anche se mi invitano, piglio e vado, ma anche l'amico, cazzo, quando mi chiede andare a pescare, sì, io vado a pescare, però dovremmo pochi chilometri, e no, un travozzo. A pescare ci vado io, già. Ogni settimana, ma vado sempre al mercato a pescare però. Al mercato Garombento, sì. Dai 50 euro e ti dai di tutto lo pesce che ti pare piace. Lo pesco così, la pesca mia è così. Un bello sport, per carità. Però, se altro non si può fare, ma come si fa? Con il tempo che sta facendo, e a dove vuoi andare? Con questo vento, già sono lì le canne della pesca, si stanno frattumando, io penso. Adesso al tempo bello, l'altro mese iniziamo sperando che questo amico che mi porti con il gommone, vediamo un po' cosa ne esce fuori. Luca! Ah, il gommone non cancella il mare. Il gommone? Ho detto non cancella il mare. Non cancella il mare? Altro che non cancella, Un 7 metri è il gommone. E dunque, se noi andiamo a zona di dietro Spintino, quella zona lì, capito? Dopo Roccaruia, quella zona lì, a Bolentino, hai capito? Già va bene, dai. Già va bene. Già va bene quando attaccano i pesci, sì, quello sì. Quando non attaccano ce ne ritorniamo, a volte ce ne ritorniamo anche a mani vuote, a volte prendiamo, a volte no. Già lo so, la pesca è così, c'è quel giorno che peschi bene, vista Gio Maria, con 50 euro lì pesca sempre bene, spreca poco tempo, poca benzina, vero Gio Maria? Luca, magari non è Certo, non è che puoi mangiare quella roba genuina e scendere dal mare, no? Però cazzo, cosa vuoi pretendere? Però non prendi fatica, non pigli freddo, eccetera, eccetera, capito? Filippesi. Ah, dai, io non le tante torri, metti invece la tempe caffè, lo vivo tutta la settimana e non fai nulla a burro. Di questa maniera sei sicuro che la pesca la trovi come vuoi tu pure. Vabbè, ma domani il discorso è questo, che quando vai a pescare, almeno ti fai quello che vuoi, ti paghi nulla, e pesci quello. Vabbè, fa bene la pesca, ma non lo so, stato mai uno proprio attivo per la pesca, ma c'è tante volte mi volevo lo portare. Anche mio figlio guarda per la barca, quella barca grande. Vai, no, mi è mai piaciuto, no, il mare, ma a me non esiste. A dire, così che la pesca, ripeto, gli andare a casa, la ciappi subito, basta vedere, la ciappi, tutto che ci vuoi, è roba buona pure a ciappi, però vi vuol dire, o no lui. Anche quello, beh certo, comprare l'attrezzatura ci vogliono soldi, e come? Allora, Giuseppe Pezziano, fate un viaggio a Biondo, ciccia, molte volte, però, qualche volta l'ho mangiato, sarà fatto, così è Giuseppe. Una volta l'ho mangiato il pesce, non è quello il problema. Qualche oratina, orata, sarago, pagelli, già ne abbiamo portato su pesce da zuppa, a volte anche qualche piccola murena. Passerami! Sì, Graziano va da pescare, Graziano va tutti i giorni, tutte le sere. Dimmi Graziano, come andi tu a pescare, un giasera o cazzo, una volta alla ghita? Ma non c'è la ghita, ando la baracqua. E pecco di tutto, sul gelato, freco di tutto. Penso là, Leocci. Grazie a sì. E lui se ne intende di pesca, Sì. E allora, hai beccato fottorate, freche, animali. Ha lanciato tutta l'ora l'ha mangiato, Leocci. Dai, come stai? Sì, ti ha detto come stai, mi è un giro, grazie. Non copia, Leocci. Ah, mi senti, grazie. Adesso sì che ti ho sentito. Poco fa no, quel passaggio. Ho detto, bello, chef d'Italia, come sta? Sempre ingrassendosi, sì, Insomma, schifo faccio. Cazzo, te ne affutti tu cazzo, ne ha sabato domenica, di spuntino cazzo te ne affutti, Già lo credo, e tanto dopo non ci siamo, o cosa vuoi fare come Gian Maria che sta sotterrando in campagna a vedere se cresce l'albero? Gian Maria c'ha gli anni suoi, bisogna capirlo, c'ha un po' di anni più di te, grazie a Gio Maria, dunque glielo dobbiamo permettere. Sì, di piantare di là, Gio Maria, dimmi l'albero che è. Ma già ne ha tagliata il salto però. E Luca è un stesso, ha pigliato, ha imparato da te, Luca. E cosa? L'albero dei soldi che c'ha nell'orticello. Ah, sì, vabbè, per forza, quello cresce, in anno cresce. Stai attento se passa il gatto e la volpe, però, È vero. Luda, cosa esci, Nità? Dacci 400, biglietti. No, dacci da 200. Buono, buono. Una via di mezzo, così è Gian Maria. Eia! Oggi a pescare sei andato. Cos'è? Non ho capito. Sei andato a pescare. E quando quando stava facendo un tempo bello, sì. Cosa me ne posso? Cosa me ne manco? A casa. Ho trovato l'amico che abbiamo gareggiato e siamo andati a pescare con il gommone. A carpe non ci vai mai, al fiume. No, negativo, a me non mi piacciono le carpe. E poi ce li vendi, un baglietto ce li bigliami, vero Gianmarco? Già infatti è così. Non rimani duri, vendi, no, le oggi. Non saranno, a me non mi piacciono le cose. Le carpe a me, io le odio. Sì, ma se vai a prenderle, poi le vendi. Bisogna saperle prendere le carpe, c'è tutto un altro modo di pescare, hai capito le carpe? Ma a strappo devi fare, lanci la lenza, quella grossa, come entra a strappi e vedi che ne tiri la carpa, vero lui? E allora? Poi si rubocia, direttamente a bancare. Ma Luca, sparito. Sono qua, ho detto, via. Ah, tu non ci sei mai andato, sì? A carpe no, a pescare sì. A pescare carpe. Strappo non si può pescare, già lo sai. Io vado a pescare le scarpe nei negozi. Già lo so, adesso, ma un biglietto gli abbandono a te. No, io tantissimi anni fa già ci andavo, anche a tu lo andavo. E chi vi al lago? E ne arrigava me bene, è buono e buono, sapete cucinare bene e vogliono. Una volta mi ne ha regalato due o tre, mi pare, coso. Come si chiama? Chissà che era in un palazzo della bottega di Giulio, come si chiamava? Chissà, talmente grazia. Due o tre mi ne ha regalato chissà carpa. Alessio mi sembra si chiamava, che adesso sposato e abita o a Uri o a Uzini. Infatti, tre mi marghiera. Certo. Ognuna gatta. Ma chi sa vuoi saputa fa però, Se saputa cucinare, dice buona a me, un bel buona, capito? Ognuna. Con le bumazze fresche, mia gatta, il forro. Gli ho preso il peperoncino. E un boccione di vino bianco. È sicuro. No. Io quando le portavo anche quelle mezzane piccole. Mamma ribunia nella vasca da bagno in casa e gli rappava minestra, lubani, l'ingrassava, quando era da grassa, li faceva la vecchia. Allora era il Gian Umberto, la concessione, e l'abbiamo tirata, allora abbiamo mollato tutto. Ciao Antonè! Buongiorno, signor chef. Allora, cosa ci racconti? Qua stiamo parlando io, Luca, Leoncino, Gian Maria, di pesce. Mi raccomando che mi senti, che vai durante la puntata Alghero. Mi si è spaccato la staffa del coso, del motore mi si è spaccato sopra e quindi girato alla per apposta, un cazzo si sa cosa ho fatto con questo vento, se mi butti giù a me, tanto già le raffiche che ci sono via Calofrici già sono poche già, a Mulinello mi. Sì, già lo so, anche qua c'è vento, mi ho saltato adesso sul terrazzo a drizzare un po' di piante e a pigiare questa roba che ci si a buccare il vento, ventareggio, Netto dei cornuti. Allora, mia Giuseppe, mi Barrado. Barrado, dove è? Cazzo, ha fabbricato un cazzo quello lì, cazzo, e ha saltato il vento, Gian Maria. Già ti porto via te l'antenna, il vento, dove è stanotte? E a me non mi si gira l'antenna. Un'altra cosa mi si gira a me, altro che... La canna. La canna rinnescia. Luca, cosa stai facendo? Luca sta merendando. Allora mi ha giubiattato l'avvento la nuva di aspirazione. Bella, bianca. Cosa hai fatto? Si è passata l'avventola dell'aspirazione in cucina. La poco comprata e poco fa me l'ho piazzata, come l'ultimo vado in burro. Ah. Ma fino a dentro o la porta fuori? Da dentro la porta fuori, quando scorro la pasta, no? Oppure se c'è la finestra chiusa, che c'ho pentole che stanno bollendo e fa vapore. Con la cappa non ce la fa, allora aziono anche quella pentola e aspira di più, capito? Va bene, dai, signori, io vi saluto, dai, ci sentiamo più tardi, se concide, dai. Ciao, Domari, ciao, grazie, e non mangiare troppo, e ciao, Polpo, ci sentiamo più tardi. Ciao, a più tardi, ok, vai, Luca. Ciao Lemonci, ci sentiamo, ciao. Ciao Giuseppe, ci sentiamo dopo. Prendi tu Luca, ti sento travalato, ma dormai mi dici. Troppo, no, stavo leggendo su Facebook. Ah, mi adesso me l'ha ricordato, lo metto a caricare il telefono. Riprendi tu Giomari. Riprendo io, ohia, io pure sto guardando un film, mi sto guardando, e cosa vuoi fare? Chiacchierando e guardando i film, ogni tanto mi assento, e cosa vuoi fare? A fine vento, tanto lei in zona. Sì, non si può stare, del vento. A me mi ha fatto danno, non questo, ma quello l'altra volta, il vento, non mi sono accorto che mi ha spaccato la staffetta che è centrale, dove va agganciata dove la parabola gira, in pratica si è spaccata in due. Me ne sono accorto ieri quando sono salito sopra il tetto e ho fatto girare l'antenna a casa. Adesso devo farmela, se si può saldare me la faccio saldare, se no vediamo, prima la pulisco bene, appena farò una bella giornata salgo sopra e metto quella specie di aggeggio, adesso non mi ricordo come si chiama, quella per agganciare i tiranti, e così sono più tranquillo, la metto più in alto i tiranti, li metto nuovi e poi il motore lo metto sotto, se si può mettere a posto, se no pazienza e già c'è il cassonetto. Ehi, un attimo il telefono. Ehi, e cos'è che ti aveva rotto perché Antone? Il perno centrale del motore della parabola mi ha spaccato, non l'altro, non dove c'è dove c'è agganciata la staffa dell'antenna, no, proprio il pezzo centrale mi ha spaccato, ho visto che c'era uno spacco in mezzo, hai capito, fa pressione, poi il motore già funziona, grazie a Dio non c'ha niente, è che fa pressione, hai capito, quindi non ce la fa farlo girare. Adesso appena fa la bella giornata salgo sopra, scende il motore intero, la pulisco bene, mi faccio saldare il pezzo e gli lascio solamente il perno centrale, così non c'ho l'angolazione e se la biglia in culo, perché adesso come adesso cioè in pratica fa l'angolazione, no, dei gradi, ma non è quello che ha spaccato l'altro, il bello è quello, la forza del vento, a forza di dargli le stracciolate, ha pigliato e tac! Il vento era forte quei giorni là, e anche adesso mio, un bel forte il vento, caspita, si intende, no, che ed è tutto chiuso, e però già si sente, no, che non piglio in pieno il vento. Tu lo pigli in pieno perché c'è le finestre proprio, io c'ho le finestre della mansarda, ce le presenti, e quindi il vento lo piglia di striscio, però l'antenna la piglia in pieno, il discorso è quello, di fa da come si chiama, tipo la sollevatore, la spinta a me. Sì, la mia antenna sembra un'arpa, con le corde che ci sono, quei tre tiranti che avevo messo, sembra l'arpa, faggi blum blum blum blum. Suonami, sembra un'arpa, sembra. La notte poi si sente ancora di più perché rimbomba. Quello già lo farsi per forza. Dovresti mettergli un tappo sotto un tappo di plastica, sotto al tubo. in modo che il tubo non faccia la risonanza, capito? Il tubo d'acqua. Mette un tappo di sughero. No, mai anche dalle corde, dai tre tiranti che avevo messo, ne avevo messo tre, poi l'altro non l'avevo messo. E quando soffia da qua verso il latero, cioè verso su come adesso, senti sempre su nenni, si attirichi di nutti, pare un'arpa, la musica proprio. Già lo so, mi è capitato a me quel difetto. Quando la prima volta che ho installato l'antenna me l'ha fatto. Ci ho messo i tiranti e sembrava, suonava, faceva... Infatti avevo tutti i tiranti, avevo tolto. Ho lasciato solamente l'antenna senza tiranti. E meno male il palo era basso, perché il palo era quasi 6 metri era il palo, figurati tu. No, questa fa come fa l'arpa proprio, non capito. Ehi, già ho capito, già. Purtroppo ho capito. Uso vento, ormai siamo abituati. Vento 100, 120, a volte 150. Dipende dalle giornate, capito? Sembriamo l'isola di cosa sembriamo adesso? L'isola di Polifemo sembra. Ci manca solo il citivo dei cantoni. Luca, riprendi! Adesso mi assento una ventina di minuti, dai. Ma non ce la fa? No, ma che? Io me la lavo una volta al mese. E fai bene, comunque ti basi in barra a leva, al comune, ladri, conviene, ma anche ogni due mesi. Vero, Antone? Io l'acqua la pago condominiale, che pago anche poco, neanche 10 euro al mese pago, figurati di acqua. Il problema è se sono i cassonetti, ci hanno messo i cassonetti porta a porta. E abbiamo 5 cassonetti all'ingresso e quindi ogni notte bisogna scendere dalle 10 a mezzanotte, capito? Passano per riscuotere la mondezza e ci sono i giorni, devi rispettare le ore, altro il gasino. La tronzata! Io che l'hanno fatto ma un mese! Allora la mondezza che vira, una montagna di mondezza vira, non vira nei cacionetti. A venire l'hanno tornato a regare i cacionetti, ma stai scherzando, che non fa qua. Adesso vediamo qui cosa succede, perché qui sono 4 condomini e sono 7 persone, 7 sono ogni palazzo, quindi 7 per 4 sono 28. Ehi, ne c'è un casino, più di uno si rampa la mondezza e nessuno è. E poi si forma la montagna, come t'hanno fatto i nocchi, quel periodo. Cazzo, e da un montinaggio. A fare il comune, so. Anzi, io c'ho... non qui, ma di fronte a casa mia non è il problema, che ci sono tutti quei condomini, uno fianco all'altro. Gli ultimi che hanno fatto nuovi si chiamano Felice, quindi ci sarà un bel casino. Metteranno tutti i cassonetti fuori, e avere di mondezza. Blu, vediamo la scena tua. Già sono pieni adesso, come in strada. E qua non sai quanta gente viene da Sant'Orsola, da Ruati, da Ziburu, e la rampa nei gaccioni, no, che la mondezza. E poi ci sono sempre pieni. E anche qui viene gente da fuori, viene gente dalla parte di sud, dove c'è l'alberghiero, e scarica e capito la mondezza nei cassonetti di qui, dell'angolo. Si fa il giro, si fa capito la notte. Nell'angolo mi, qui nell'angolo è pieno, qui di villette, qui a un certo punto non so che diavolo faranno, se usciranno di testa. Vedremo, si comincia da lunedì questa storia. Ma quello va bene in certi posti, in certe zone non fa, e come ti fai? Ma stai scherzando? Qua non fa, a chi tu ci vedi, a quando l'aridro è pieno come una montagna, sia cassonetti che vicino ai cassonetti. Tu qua come fa a mettere quel secchiellino di 13? E chi ti dati? Ma stiamo scherzando, che non fa? Oh! No, fanno l'unica cosa che vanno a fare è metterci i cassoni grandi, hai capito? Davanti alla palazzina. E basta. Tutto lì. Come adesso, me. Il problema è che poi passano gli zingari, aprono tutti i cassoni e si zampano tutto quanto in terra. Quindi a un certo punto, perché c'è una cosa da fare, zingari che abita su, capito, dove c'è Corea, quindi scendono giù con la carrozzina, svuotano tutti i sacchetti, ci buttano la roba in terra, capito, per cercare la roba buona da vendere, o da vendere o da portarsi a casa. Ma, no, qui i cacciolotti non vanno a nessuno, è solo quello che c'è vicino alla chiesetta dove metti la roba, e chi mi già ne ha visto io, pigliandomi la roba, l'hanno messo da Dareddu, l'hanno girato lo sportello a una berra, l'hanno bucato la roba buona, se li l'hanno su parenti. Io sono successo poco fa, lì da Cicce, per le sigarette, tutti i cassonetti in terra ci sono, tutti quelli piccoli lì, tutti quei cassonetti piccoli, tutti in terra al vento, in mezzo strada addirittura. Figurati, non passi vicino a Ciccino, te scende un palo in quella piazzetta, ti ammazzo a casa, o un albero. Pericoloso, non hai visto il telegiornale? Il vento non ha fatto un albero, ha cicciato una macchina ed è morto quello che era dentro la macchina. Poi un altro albero ne è sedato di vulca, non se ne sappia se era una banda o che macchina era. Proprio spiaccicata. E tu guarda il coso ficco, tutti quegli alberi sono stati piazzati tutti male dal comune. Io penso che ne scendono a uno qualche giorno. Oh, l'andeo per vento non conviene mai mettere macchine né vicino ai palazzi e né sotto all'albero. Oh, e i palazzi quando va il vento non ti conviene neanche camminare. Vigila il barazzo, se te ne va la cacca in partita, o cacca tira in capo, cacca pezzo di cornicione. Oh yeah, per carità. Sì, per quello giorno me la vai già cammino dall'altra parte io. Fai girare e fai, non c'è problema. Ah, io quando cammino io abbaio, alzo sempre un capo e abbaio la situazione di un isocubazzini. Secondo come è terbazzo mi porta in pressa a buco. Ehi, qua ci sono le pastere dove abito io. Capito? L'altro anno ne è caduta la pastera nel terrazzo di Domino, ne è caduta. Da quello che piano di sopra. Figurati. Ah, via. Non passi, no. Dove sono io che ci metto i vasi di quelli piccoli, passano a passare il vento sui tuoi piano di sotto. E di qui invece si sta buttando tutti i mattoni in cotto che ci sono, quelli belli grossi, quelli che usi a fare il passamano nei muri, quelli sono belli grossi, e sono da 25, sono 25 per 30. Sono grossi, 2 centimetri, ti ne parlano di chi si dà ammazza in pieno. Io ho già capito quello che stai dicendo, quelli arancioni so. Quelli ce li ho anch'io, mi si è staccato uno, adesso bisogna che gli metto un po' di cemento per incollarlo attorno. Mi si è staccato l'altro giorno. Una volta che ho fatto il vento me l'ha stracciato, la metà me l'ha stracciato di uno di quelli. Addirittura di passamano. Un po' di collante ci metti, lo prendi in ferramenta, lo vendono anche a Ittimi, in ferramenta, ne bisi 2 etti, una cazzata, lo impassi dentro un cosumeccio, e poi lo metti e ci appoggi il mattone sopra, stesso col collante, glielo succhi e asciuga anche prima, in ferramenta lo vendono anche sfuso il collante. Costa una cazzata. No, no, ci metto il cemento, io ci ho messo il cemento rapido, a vedere se non si molla più, capito? Io ho fatto bene una bella passata, l'ho schiacciato bene. Di domani mattina non si muoveva più, sta tranquillo. E anche il cemento rapido già fai prima, già sta prima. Ma c'è andava le buttate che non si muovia. Ehi, io che ne so quasi tutti i varati. Dove nella tromba delle scale, mi ci scendono giù dove c'è la discesa per scendere nei garage. Ti bica a capo da ammazza. Sicuro. In te. Sicuro, buonasera. Buonasera Graziano. Ciao papà chi? Ciao a tutte e due. E beh, come la fa? Vento ce n'è? Ce n'è vento, ne volete? No, no, no, basta, basta quello che c'è utile il vento. No, lì ci tocca più di qua, Così, Antonè? Sì, piacere qua a vento, voglia. Ma ha staccato la staffa del motore, figurati a me. No, la staffa, la... Ferno, ma ha staccato in due la forza del vento. Ma è stato accorto ieri, non sono salito prima di esserci il vento. Sono salito di 10 minuti. Perché non girava la parabola, mi sono accorto che era lesionato il perno centrale. Quindi si è allargato e fa pressione. Adesso aspetto che il vento si calmi, li tocco proprio di salsiglio, sembrava cosa, sembrava che avessi messo un po' il collo con la portale. Sì, bisogna asciugare, se no se la porto via. E allora grazie, non c'è il signor Squalo, non c'è? Io non l'ho sentito, c'è... c'è Luca che si è assentato 10 minuti. Poi rientra come ha finito. Cioè Gian Maria, non so se in ascolto si stava guardando un film. E poi più tardi dovrebbe rientrare Leoncino. E poi non si è sentito. Adesso rilascia te e riprendo fra 2 minuti. Prova a chiamarlo tu a Gian Maria. La chiamiamo Gian Maria. Gian Maria, ci sei? Gian Maria sta guardando i film pornografici, non c'è. Allora Antonè, ma come mi ascolti? Mi dicono che sto uscendo male. Bene, bene, male, tu cosa ne pensi? Vabbè, io ho problemi d'antenna, arrivi qui segnale 3, la radio non è tanto alta, tipo segnale 3. Ascoltami, dunque per aumentare qua nel menu cosa bisogna fare? Deve entrare nel menu dove c'è scritto Mikey Gain e LC, basta, deve entrare in quella storia lì, ti prendi il foglietto in mano, tanto ci sarà una, come si può dire, una specie di cosa, di svita ci sarà, in modo che quando tu aumenti, piglia e quando parli sale, come fatto qua. Capito? Io sono andato sul menu 30, sul 30, e poi cosa c'è scritto, non mi ricordo se c'è scritto, però da lì non riesco ad andare avanti, no, buccia di gioca. Ho fatto lo fallatore, tu già riconosci quegli apparati lì, già te lo ricordi. Fatto il programmatore, quelle, hai capito, si può anche programmare addirittura i portatili per aumentare l'audio tramite, capito, il CD. Quindi io penso che se entri nel menu, te lo puoi regolare tranquillamente tu, non c'è bisogno di avere la programmazione della computer per aumentare l'audio. Quelli bisogna attaccare la computer con i piccolini che c'è a Marino, Sattore, c'è anche tu. A proposito dei piccoli, ma da quello là più andato ci sei, Antonè? Ho capito, ci sono andato, Cinese, di passato ci sei. Cinese, sono andato, ci ho trovato un sacco di portatili. V, ci ho trovato. Ne ho preso un pacco di quelli, anche non ho preso mica, l'ha pigliato il finocchietto e... l'ho portato da un amico, lo ho fatto programmare e funziona benissimo, ce l'ha in furgone, lo usa il furgone, lui ogni tanto lo usa a Sassari, se lo porta a caccia. Ma ne ha di quei PMR che hai preso tu l'altro giorno a Marino? No, di quelli già ce li ha, c'è un pacco di quelli, ma sono uguali, non cambia nulla a me. Il problema è che vogliono programmare, devi andare sul sito di internet, CRP si chiama, C-H-I-R-P, e c'è un animatore che ti spiega tutto come fare, come scaricarti le frequenze, direttamente tramite internet, senza avere il CD. E quella che ha, che marca sono adesso? Programmazione, hai capito? Una volta che ti ho programmato va bene, arriva addirittura quei portatili, arrivano fino a 570 MHz, figurati tu. Sì, ma che marca sono quelle che ha adesso? Era YJ, non mi ricordo come già si chiama. Ce li ha una cosa, ce li ha, ma se ci vai domani mattina, ti fai un giro lì mi hanno detto che c'è stato l'Europorto S, un altro negozio cinese che non mi ricordo che diavolo era, mi hanno detto, e li voleva 19,1 singoli, però quindi se no, questi sono a coppia, 44 euro non è che sia molto, vedete, intanto se te li fa arrivare ci sono sempre 10 euro di spedizione, ti conviene pigliarti direttamente lì e fai prima. Comunque l'otto ce n'è solamente uno, c'è una scatola a culo e basta, evidentemente l'altro gli hanno fottuto. E quel bobo l'altro giorno sono andato, mi dice no, non ne abbiamo, stavo mangiando un coso, noccioline, voglio un buco. E io ti accompagno, io te lo faccio vedere dov'è, avevo messo all'ultimo io, che l'ho visto, gli ho chiesto anche, l'otto, hai capito? Ma quelli che c'è davanti sono uguali, sono precisi identici, non cambia nulla, cambia solamente il nome, è la stessa identica cosa, lo stesso identico apparato. E ma l'antenna stacca? Svitano le antenne o no? Certo che svitano le antenne. Allora si può andare. Che prezzo ti ha fatto a te quello lì? Se puoi andare la mattina ti accompagno io, non è quello il problema. Mi telefono la mattina. Mi dice Antonio, io che andiamo lì, ti accompagno io e te lo faccio vedere. Capito, gli apparati e ti riprendi. Poi per la programmazione bisogna che vada qualcuno che ti riprogrammi. Capito? Chi da toglie al limite, te li fai mettere 8 canali PMR, 8 LPD, sei a posto. Tanto sempre 5 battute uscita ci hanno. Non ce lo sa fare Tore, quello già è pratico, è del mestiere. Problemi, capito? Tu pigliatene due di quelli, la coppia, ci hai visti quelli che ho dato io a Marino? Sono una bomba, sembravano della bandini, ma invece funzionano benissimo, non so voi che sono degli apparecchi belli, ma veramente belli, e anche quelli che stiamo andando adesso sono uguali. Aspetta, adesso mi stanno chiamando, 2 minuti. Sì, no, una coppia me ne serve, perché uno lo devo regalare, capito? Una coppia. Grazie, arrivato sì. Arrivo! Presente, devi dire quando arrivi. Antonio questo non l'ha fatto militare. Oh, Antonio l'ha fatto fumo, grazie. Caruti siete! Grazie. Ehi, dimmi! Sto dando la corda alla cipolla! Allora fai l'insalata stasera. Se no da qui si ferma e allora ogni giorno gli do la corda a tutti e due perché ce li ho appese qua in cucina, sono un ricordo della buon'anima di babbo. Ma in cucina si rovinano però, graziami, è la cosa della condensa si rovina. No, non ci arriva, cosa si rovina? Una è d'argento, delle frae ferrate sarde. Questa me l'aveva data il mio zio Luigi Chelo, già l'hai conosciuto. Io che l'ho conosciuto, se abitavo vicino a casa non l'ho conosciuto. Siccome è mio zio, me l'aveva regalato due, l'altra però la devo buttare con sa, c'è il vetro rotto, se ne sono usciti le lancette, mi pare mi manca una lancetta piccolina. Ma si trovano quelle lì, grazie, le cambiano. Un orologio lo devo portarlo e te lo fa in movimento. Quando c'ho tempo già me lo porto, perché sono belle. Questo c'è anche il disegno delle strade ferrate, sarde, ed è d'argento, mi. Poi sono belle. A parte dentro, nello sportellino di dietro, ci ha appiccicato una fotografia di mia moglie. Ah, ho capito. Bello, bello. E allora è da tenere conto. L'orologiaio, ma lo porti quello in via Manno, quell'orologiaio, c'è così le mani d'oro. Sì, già lo so. Invece l'altro, quando mio padre si è congedato dal lavoro, tutti i dipendenti gli hanno fatto il regalo ed è tutto d'oro, la cipolla. E c'è la dedica dentro, no? Dai colleghi di lavoro c'è scritto auguri e chi gosi, là, a vanno rubecchio, non vanno gli occhiali. E c'è anche quello qua, però tenerlo conservato, così almeno li faccio funzionare. Tieni di conto, quelli riservati erano voluti dal vapore acqua e tutta la roba lì, se no si possono anche rovinare. Antonello, ci sei? Antonello, stava parlando, che lo si ha, e non si è sentito più. Era imbattuto con una bionda, ogni tanto quasi così. A me mi pare né bionda né bruna è dubbia. Sì, la bionda con la cannuccia, va a me. Sì, hai già compreso che abbiamo la cannuccia, e tu le bionde le succia, non gli tratta la camaniera, no, la succiatura le fatti. Allora, infatti hai visto che è diventato tutto bello bianco. No. Antone, sì, ti mangia l'ubidoscio pantera. Gian Maria in letargo, Torre Pinna in letargo, Marino sotto il letto. Sì, Torre sarà in bicicletta con un cane appresso, Marino sarà apparso all'aria su Ragheni a chi recupereggia l'ore di Romanzano. Sì, oggi ha travagliato tutta la lì, dunque fatelo conto tu. Dalle 4 di Manzano, non avrà finita stasera alle 4, 4 e mezzo, quindi quando trovo gli 80 la lì. Ci hanno lì invece di sonno, ci giovano. E allora, questa cipolla d'oro l'ho portata al compro e vendi, a vedere quanto me la valutava. E mi ha detto 2500 euro, l'ha detto vai, non mi si dice niente, dammi lo riduccio, dammi. 2500 euro? Lo sai, furata, No, 2005! No, quelli disgraziati, compare c'è un sacco valato e vendono i gari. Ma io ero fatto per vedere cosa mi diceva, quanto mi sparava. Mica glielo dava, per curiosità. Sì, sono tutti uno peggio dell'altro, sono uno peggio dell'altro. Fatelo conto. Ma fammi 5 saldature e una catena, che faccio? Cosa? 250 euro. In più devi dare 20 grammi d'oro. Gli avrà fatto sicuramente il lavaggio, la catenina, con il lavaggio loro, te ne mangiano i loro di la catenina, poi lo filtrano e si recuperano tutto loro che ti hanno pregato. Non l'hai guardata che te l'ha tornata più sottile? Ma la giuita, aspetti, ancora non la faccio, non c'ho quattrini, con i soldi ci vengo, non lascio che ancora andarvi. A chi? La giuita, il peso rimane sempre uguale, sì, aumenta di qualche cosa. Deve aumentare, fai forza, se ti do 20 grammi di coso, di d'oro. Tu devi aumentare la catena 20 grammi, non puoi scendere manco. Ah, sono una barca di truffatori quelli, non l'hai vista, Striscia la Notizia, l'ha fatto vedere da poco. Quello Striscia la Notizia, da uno all'altro giambavano, non veniva uno che azzicava, un beso giusto, uno ti dice addosso, l'altro ti dice addosso, tutti rompi. E tutti amo lo suo, ognuno lo fa i fatti suoi, anda. E comincia la questione delle previsioni del tempo, tu vai di canale 5, vai di canale 3, vai di Vediolina, vai di... alla fine è uno che si assomiglia. Poi è entrato che si striscia la notizia, a tutti gli altri l'ha fatta rimanere in mezzo, truffatori. E così, sono tutti uguali, tutti a fare portafoglio. E allora, tutti ladri sono, ti butti in roba a testa, anche se io una volta da un amico mio, che c'ha l'oreficeria, gli ho detto, ma la catenina mia ha si può fare più lucida, che si è fatta appoggiare giù scolorista, ma di te perché vuole la fatta quel prodotto, me la porti e te la faccio. Mi ha già ricata quando sono andata a prendermi la era più fine, la dice, ma sicuro sì che questa è la mia, sarà più grossa. No, è quella è la tua, l'ho solo lavata. E che tu mi l'hai furato loro. Loro c'hanno materiale, no, che mettono per lavartela, che si mangia loro, compreso, poi loro se lo filtrano e se lo recuperano, capito? Nel trucco c'è ma non si vede. E mi hai facito adesso, io l'ho preso il succulente, il succulente pare che è 4,20, cosa del genere, dai. E il succulente di droga come la dai, dice che può diminuire e può aumentare, e adesso la sapete lì, cioè ci penso lì alla porta, cosa che andava, e non vanno pure, perché non c'è più più disonesto vanno. Ehi, sono tutta una manica, chi era pure amico mio, da di Bizzino, mi da Bizzino, ma tutti due matessi, ma io sono questa di chi, io vi la giudizio subito in faccia, la dite vabbè, mi la bisogna, ma non mi hai fottito, a che tu mi l'hai fatta più finita catenella, dunque non mi dici di no, a che cazzo vi la giù 20 anni, ed era sempre per la grossa. E quasi la metà di come ti l'ha giurata, non ho capito. Guadagno lì, disgraziato, lo guadagno i chili, prendere un gramma uno, un gramma all'altro si fa la torrata. Come ti in via Rosello, per un'officeria, ci mi ha tagliato il moschettone della catena, ed è grosso il moschettone, mi ha ciambato e mi ha pigliato 60 euro. E in più si sentono il vecchio, il vecchio lo fa, dice l'ho sciolto perché devo fare della salata. Ehi, t'ha fottito, già la conosco la padrona di quell'orificeria. Truffadora, ma stessi. Sì, Caterina si chiama la padrona, già la conosco già. La conosco da minorita, chissà, un'altra, mi poca l'onfia. Ma... la gente pure mi pare sia poco a poco, se fanno una volta la fanno la seconda. Ma lo sai cos'è? Loro campano così puttani a uno all'altro. Ma tu una volta ti ha fottito non vanno in bicchia, vanno da un altro, non hai compreso e putta che d'altro. E campano così, non hai compreso. E li puttini, però vedo che dovranno la prima volta, la seconda volta la fanno. Vedo, anzi... E io l'avevo detto pure ai suoi amici miei, te la farà già fare una bella pubblicità, non ti preoccupa. A chi lo dico a tutti che si conosce, se non ha regato un cazzo. Certo che la pubblicità gli si venda per clienti. Io quando ho avuto occasione che magari stavamo chiacchierando così, l'ho fatto presente a quelli che c'erano lì, mi chiese di fare così e così, non banditi. Chissà, penso che non possano tutti, ma fatto amico, ma tutti i tuburami a razza l'amico. Siete amici, capito? Sono gli amici, ti futti, sono i primi che ti futti. Ma non mi ha futti i dubbi, intanto a me tutti i volti capita già l'occasione, mi va bene, non va da nessuno, così impara. E no, se no, il bravo elettricista che ha portato il motore della serranda. L'ha bruciato la scheda e l'ha fatto un ponte. Ha funzionato poco di tempo e nulla. Vabbè, non andava più. L'ha recuperata loro, l'ha fatta ciambata da un altro. La porta è stata attaccata 5 minuti. Non è stato 5 minuti, ha girato la scala, ha girato tutto. 60 euro. E non andava bene. Ma cacciamallo, ne mangi lo zalbito e ne lo fai da fare a controllare la strada che non andava. Sì, fatta grossa impressa, grazie, cosa impressa, dammi i drammi, sono contenti. Allora, lui mi fa tenere tutti i cucini, hai compreso? Ma per carità. E stasera piano piano, con calma, ma ci butti 10 minuti. Mi ho piazzato la ventola nuova in cucina. 10 minuti ci ho messo, senza chiamare nessuno. Io un bel di lavori me li faccio tutti, io non chiamo nessuno. Quando so cose che vuole fare, sì, è raro che qua ho chiamato gente. Io ho chiamato quello quando ho comprato la caldaia. E vabbè, però per l'impianto, l'impianto me l'ha già fatto tutto io. Quando l'ha già fatto, l'ha già chiamato, bene va così per attaccarmi la caldaia. Sì, sì, capita, è perfetto. Allora, domani andrà a pigliarmi la caldaia, da domani viene a piazzarmi la caldaia. Perché mi deve fare il pollo e tutto, se no me la riappiazza da io, non hai compreso. Bisogna lasciare il buio, scovecchiando con la vada e fatta. E cosa è caldaia a gasolio? Oh, c'ho la caldaia a cal, a gas, ed è anche idro, però posso usare anche l'acqua calda, e per i termosifoni. E prima usavo quella, prima di comprarmi la stufa a pelle. Attaccavo il bombolone dietro, nel terrazzo, quello da 25, poi ne mettevo, era troppo pesante, due da 15, e usavo i termosifoni, no, e l'acqua calda. Sì, ma con il gas consuma, conviene più il pellet. Io vabbè, quando si guasta la stufa a pellet, sono un saccaccio di napoloni, Lo so, perché mi ho comprato la stufa a pellet, perché lo gas era troppo caro. Due bombole da 15 alla settimana dovevo comprare. Ed erano una vacca di dinaro che andava a fine mese. Invece col pellet spendo di meno. E vabbè, c'ho caldo ugualmente, perché mi scalda tutta la casa. Dunque mi conviene più la stufa a pellet. Se volevo me la prendevo idro, la caldaia, e la collegavo alla caldaia, ai termosifoni. Ne levavo quella là e collegavo i tubi della stufa a pellet e idro all'acqua, capito? E l'avrei avuto il calore con i termosifoni, ma era troppo voluminosa allora, 10 anni fa, quando io l'ho comprata questa. La batteria se n'è andata. Ciao, signor Bacchisio. Ciao, Tore, buonasera. Come mi ascolti stasera? Confronto a Graziano. Devo abbassare e alzare. Perché non sono riuscito a entrare in quel menù, cosa? Ci arrivo e poi non riesco ad andare avanti. Lo vedi, bello bene. Io non temo il freddo come lo temi tu, hai compreso? Bacchi, ma sei andato sul 30? Sul 30 ti dà il coso, ti dà lì. E poi devi andare avanti con i... Io adesso vado sul 30 e guardo cosa c'è scritto, ti dico cosa c'è scritto. Guarda, vatti a me. Tori! Dormito sei! E che facendo c'è? E te? Chi sono andato a freddo? Oggi era la spara a Giena, Luca, hai capito? Si l'ha fatto una gazzetta, diglielo Luca! 15 kg! Aspetta un attimino Luca, aspetta, grazie! Ma chi? Cosa mi stai dicendo? Sul 30 c'è scritto Power! Power c'è scritto e vai ancora avanti! Aspetta, una volta che parli si cancella, devo entrare in memoria. Sì, perché è fatto di 30 secondi, è fatto. Ebbene, signor Power. Prova, uscendo sotto. E fissa troppo. Tanto mi sia sul denne. Con bacchiccio devo abbassare, con te che devo alzare. Con te che devo abbassare, con bacchiccio devo alzare. La pompogna è sparito, boh. Andate a pigliarci la bionda. Allora, sarà con la galluccia, Ivi, boh. Con i mariacci sta guardando a John Wayne. Esita. Vabbè, bacchi. È vero. È silenzioso, eh. A bacchiccio conviene comprarsi uno di questi. Allora, sai chi va a mattanarsi, rugamba, la zessa e dai, buh! Ah, padre brutto! Sì, ben vista te l'hai la bionda! No, era il telefono, sta parlando con mio fratello. Non mi sono voluto mica la birra, no? Mi stavo dicendo poco fa che quei patatini cinesi sono meglio delle... di qualsiasi cosa. Partono da 140 fino a 570 mega, se non lo so io. E li puoi programmare come vuoi tu, li puoi mettere la V e la U addirittura. A me mi pare che gli venni l'amore al telefono, altro che B e V, eh. Adesso mi piglio la birra, me la bevo, la faccio a vostra. Che peso hai tu? Cos'è? Ha sentito Antonello? Non ci ho compreso, no? Caspita, niente! Dove? Ehia! Ah, mi ascolti, c'è anche la puntata a cosa, guarda, a Badiurbala, gira. Sì, a Badiurbala è puntata. No, oh, c'hai, come coso di radio, troppo forte. Da Graziano a te, catta, devo ancora abbassare. Esagerato, te. Dai, catta, c'è anche la puntata a Badiurbala. Hai capito, perché mi sembra catta lì, ieri. Quindi dalla parte opposta funziona meglio, un po' da sapersi. Vabbè, sono Bacchigio. Ehi, Ato, mi ascolti? Sì che ti ascolto. Ehi, no, esce il PTT di Popò, basta, nasce le musce a Carbieni. Bacchi, comprate uno di questi, così non hai problemi. E quale di quelli? Come il mio. Il portatile. Tu. Ce ne sono due qua. Uguale a questo. Io ho un Vocus, che cosa, un professionale, e l'altro è un cipitone cinese. Sì, ma questi escono forti in radio, vero dottore? Il portatile? No, secondo com'è c'è forte quello che c'ha, che 10 watt. Ma vorrà regolato sicuramente. Sì, deve metterlo al coso al massimo. È che non c'ho l'altro cavo io. È che ce l'ho con il coso. Se no l'avevi attaccato. Ho capito. Ebbene, dalla tua fiera non può fare nulla, sto. A programmarsi l'audio. Non ho capito, no. Dalla tastiera, ho detto, non può fare nulla a programmarsi quest'audio. Antonello! No, ci ho compreso un da cosa mi hai detto. Eia! Ma mi ascolti adesso? Ehi, ti ascolto, a voglia. Ok. Tore, mi ascolti, sì. Tore! Tore, ti vuole Marino. Ehi, Mari, mi ascolti? No, tutto mi ascolti. Oh, non la cosa bannuda io. Ehi, Antonello, tu non mi senti, non lo capisco. Non lo stai uscendo. Però è peggio per te, dai. Sto usando pure il tenino di Bacchiglio. Dentro casa, però sono sempre giù, sempre giù. Ok, continuate, lo vengo ascolto, dai. Bacchiglio, buonasera. Esci a tratti, Marino, se mi copi, stai uscendo a tratti. Marino, come va? No, esci a tratti. Sto facendo l'altro, dai. Anda a radio. Grazie. E beh, Bacchi, a posto sì. Ehi, adesso ho cambiato, guarda un po'. Io a Marino non l'ascolto, zero riporto zero. E Bacchi, avanti si è alzato, Radio. Che ho cambiato radio, tu, ho messo il portatile. Ah, il portatile hai messo. Ehi, aspetta, se riesco a trovare un cavo, lo accendo quello là e ti dico cosa è. Grazie, Marino lo senti? No, sta cambiando la radio, usci va a tratti. Ah, tratteggiato, Bobo. È il vento che si porta via le parole. Due che ha mangiato un fagiolo e c'è tutto scorreggiato. Se lo tondo o facevo quadrato? Allora, riprendi Luca. Ehi, you. Ehi, lui. Ma Popo non mi sente a me? Certo che ti ascolto. Ma con le orecchie? Ah, che col naso. È vero. Da quando è puntata a Buddy Urban c'è molto più forte questo apparecchio, fuori di testa. È puntata dalla parte di Buddy Urban l'antenna. Fratello, a me come mi senti oggi? Io mi sento tutti, io non vi preoccupate. Ma mi senti più forte, meglio, com'è? Fortissimo! Da me arrivi 5-6, invece da cosa arrivi fortissimo adesso? Figurati. Ha voglia. Antonio! Eia! Ma sto usando quello tuo adesso, sto dentro casa quello tuo. Volete venire all'interno? Va bene, funziona bene il portatile. Adesso ti sento, Mari. Lo tratti, boh. Non so io. Chi è più forte qua, io o tu? Tu sei giornalista. No, già ti sento adesso. Vediamo Bacchigio se ti ha sentito. Lo senti, Bacchi a Marino? Nada di nada, 0-0. Dimmi che io non sono giù. Se ho stato su non mi ha sentito, qua giù non lo sento. Marino, Bacchigio non ti sente perché è giù ed è col gommino, capito mi hai? Vado tu, dentro casa e giù ce l'abbiamo, tutto qua. Quindi continuate, dove non puoi ascolto che sto facendo qualcosa, avanti, grazie. Non ho copiato niente io, Luca, cosa hai copiato? No, io non lo sento. Marino, se mi senti, sei sparito di nuovo. Sei dentro il tornado, non riesco a copiarti. Negativo. Tore, tu nulla senti. Il tornado ha già puntato il burattore. Luca, riprendi. Oggi siamo di vento. Poco fa, poi lo sentivo meglio. Lo sento, però ogni tanto sparisce. Sono in cazzo, sto facendo la pupù. Ah, la pipì. La pupù, ho detto, la pipì. Sto facendo? La pupù. Ah, cucù. Allora, io sento a tutti adesso, strano. Andate la puttata a Buddy Urban. La lascio così, se la piglia in culo, la direttiva. Poi quando faccio i buchi nuovi, ci metto la X300 e lascio quella, con un palo alto. Antonello, ferma il microfono, troppo vicino alla bocca ce l'hai. No, perché? Aspetta un attimo, Guarda adesso, ho cambiato l'impedenza, va meglio o peggio? Così è più chiara la voce, di quella maniera là, rimani troppo cupo. Mica è il coso questo qui, l'apparato... V5 di Plus, no, questo è il quadribanda, cambia la situazione qua. Tore addirittura da quanto lo porto non mi capiva, prima invece mi sentiva bene, forse ero più basso di segnale, invece adesso evidentemente il ripetitore che c'ha itti mi fa la riflessa. No, con questo ti sento più chiaro, vero Luca, confermi? Che cosa? Luca! Non ho capito cosa hai detto. Te lo senti meglio a Antonello con questo modo che ha cambiato di modulazione, come tonalità di voce. Tu parla. Così è quello di adesso, come sa adesso. Questo di quello di prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, distanza uguale. Adesso li metto come lo così, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, più alta è questa qua. Più alta è questa. Eia. E allora lascio questa, che tu non mi capiva. Strano. Di apparecchio qua. Adesso speriamo solo di... che la coglie il palo è quello che ci rimane. No, già. Eia, però questa versione che c'hai adesso è più chiara come tonalità di voce. L'altra rimane un po' più corposa, mi. Capito, più grossa là. Invece questa sei più più pulita come tonalità di voce. Meglio così, sono contento. Ma che Luca è contento, Luca! Che cosa? Ma cosa sei cumplieni? Non ho capito, grazie, Luca, non ti comprendo. Adesso lo senti meglio così o con la Antonello? Ma guarda, è attaccata alla porta, spostatela. E chi io? Io, allora tu, Capita, dopo 40 centimetri, parlando, sto usando il portatile. Cosa hai detto? Ripeti, forse magari prima ti sentivo più chiaro. È strana questa radio, boh. Perché questa è più forte. Allora te lo dico più piano. Ho detto, Antonello, l'hai sentito meglio poco fa o meglio adesso? Ma se te l'ho appena detto che andava meglio secondo passaggio. È più pulita, vero, come tonalità di voce. Eia, vediamo se risponde Gio Maria. Gio Maria, ci sì. Eia, sono qua, ma mi sto guardando un film. Ma cos'è John Wick? Ah? Anche lì ti piangono. Va bene, e Torre che fine ha fatto? Ho visto il bicicletta, l'ho fatto a casa, passato poco fa. Attaccata a Rondrala, hai visto? Andata a Rondrala, ci visto in bicicletta, quello qua l'ha preso. Ho ragione io. E chi vi comanda a Rugani, no, è tu. Senti, ciao, to, buonasera. Signore, con un mozzo a culo. Aspetta, un attimino che sto facendo una cosa. Speriamo che sia cosa buona. Ciao Gio Maria, buonasera. Poi signor Bacchigio, buonasera. Come si va? Ci va col vento. Tu in terra di Curiava Bacchigio, tu in terra. Boh, avevo visionato, Sì, ormai è fatto ciò che va. Un raccolto è già fatto. Si continua domani così, non manco voglia per le mani. Per carità, cosa vuoi fare? A te forte, 14 km all'ora era, adesso non so se si è calmato, ma stasera era fortissimo, Sì, poco fa sono interrato, a vedere un po', ma, lo fate aprire la Ianna, da con gli abbarri. Bah, andiamo, ti tocca a te. Però la macchina mi dai piazza, ce l'ha cuttaglioso, la faccia è bloccata anche per un muraglione. A proposito, ma che sa gru longa longa che fila Luca Stancella, cosa fede? È già tre volte che sono giunti, hanno messo ripetitori dei telefoni nuovi e la gru di Mesina è più alta del grattacielo, ogni abisso di gru, una di Piazzalla e una di Paparannida, ogni abisso di gru, ma è enorme. Figurati tu sotto il camion, quando gli ha messo i piedi, è entrato sotto il camion e ha bucato una cara longa che c'ha di 6 metri. E c'è il magazzino sotto al camion. Caspita, un bel camion gigantesco di una ruta. Grazie, però ho visto da qua, dalla finestra, è lunghissima. Infatti è grossa e lunga quella gru, e poi più ci aveva alla fine del tubo della gru un altro pezzo molto lungo. Un traliccio c'ha, perché lì c'è agganciato il gancio che è grosso, ma grosso mi. C'è il moschettone enorme e un gancio grossissimo. E infatti lì ha messo le cinghie belle grosse per salirci sopra le antenne, ma che sono manne, sono pesanti, e le hanno cambiate. Ah, ecco, non me l'ho immaginata. Me l'ho immaginata che mi piace da che cosa il grattacielo. Cazzo, la piazza del grattacielo, mi immagina. Bene, bene, avanti signor Bacchigli. Grande. Io quando l'ho visto ieri pensavo stava cambiando l'antenna a qualcosa, a Graziano. Hai trovato lui giunto sempre l'antenna a Graziano. Grazie a Paolo, ce l'avrei detto, avvicinati a te, casa, a Piazza Martina Roma. Io mi l'ho domandato già, mi ha detto appena va, una di libera gli assaggi appena ai nocchi. Vedi, devi approfittare quando vedi in sagrucca. Allora, Marco, dove ci sei assato? A Bologna c'è passa di grusi, ci sei assato. Vedi un portonello, ci sei. Ma sai che è passato un aereo, un Piper, ed era da finire, da dove finiva la gru, quell'aereo ci può un 5 metri ancora più in alto era. Quell'aereo piccolino, il Piper, senta, ci allungava un po' con la palla aereo. C'hai attrezzato in benzina già. A vero, in base è l'unico i sassari. Sì, sì, è l'unico che c'ha quella gru. Infatti fa gli interventi per tutta la Sardegna. Certo, lui arriva, ecco. Ah, mica lo capire, senti. Bebo, va bene, va. Avanti, signor Macchi. Vediamo Tore se ha terminato tutto. Tore. Tore sta combinando qualcosa di bello. Tore sta cercando un filo da poco fa, che non ha la ciappa. Ah, un filo e non ha la ciappa. E deve lasciare andare a passeggiare un filo. Mi sa che un montinaggio te l'ha pulso. Io sono l'acquato, fanno a trattarlo, è la moglie che mi l'acquato. Tore, mi quel filo vicino a Bacchiglio, mi in strada, vai a prenderlo. Chi? Non è il filo che... quel filo l'ho trovato, solo che ci ha attaccato l'accendisigari. E poi si rivede in testa la stufa. Che Tore, sai che devi fare come ho fatto io, l'accendisigari ce l'ho. Però gli ho messo le femmine e ci infilo le banane i maschi. Una specie di prolunga ho fatto. E mi serve sia a casa sia in macchina. E va, proseguito, dai, che sto guardando la cosa, dai. Ci vediamo domani in macchina, dai. Buon proseguimento, saluto di casa. A domani. Ciao Graziano, ciao Tore, ciao Luca e ciao Pompone se hai in ascolto. Grazie al riferimento, dai, chiudo io. Ciao Gianmaria, buonasera, buon tutto, a domani, se coincide. Beh, anch'io ne approfitto, ragazzi, vi saluto anche io. Rilancio a Bacchisio e ce la sentiamo a domani. Ciao a tutti, su. Riprendi Bacchi, ciao. Ok, ciao Giovanni, buona serata, mi cambiati tutti i saluti da parte di Correa Familiare. Ciao Graziano, io con le patatine anche per te, ci sentiamo domani se tutto coincide, vai vai, avanti Tore. Ciao Giovanni, ci sentiamo domani, ciao Grazia. Aspetta un attimo, Bacchè, te lo dico subito, mica sta attaccando uno spezzone di filo. Ciao! Ciao Graziano, ciao! Ciao, ciao! Buona passeggiata, buon tutto! Buona passeggiata, Antonè! Allora mi sta aspettando Tore che sta facendo un coso, una prolunga. Ah, ti puoi calmare con l'apparecchio, con l'audio in uscita, vedrà che esce bene come si deve, sto dicendo io. È basso di audio quell'apparecchio lì. Infatti col CD se c'è il programma, sono due minuti, sto, il sistema si è a posto. Sì, chi lo sa fare, Antonelli, bisogna saperlo fare. Lo so, sai cos'è il problema? Che sono tutti, la questione è, c'è solamente inglese e cinese, quindi il discorso è, devi sapere l'inglese, io l'inglese non capisco una fanculo, quindi perché se l'inglese è facile farlo, è come leggere come si chiama, hai capito? Il discorso è quello lì, anche io ho difficoltà per quello lì, per fare le programmazioni, infatti chiedo agli altri. Capito? Almeno le fanno gli altri, ma piano piano già si aumenta questa siamo pochi. Poi diventa come Midan Cibità, che tale uguale, tutti si comprano questi apparecchi qui, Midan Cibità, che lo mandano a fanculo, perché, anche perché quella specie di programmazione ti manda a fanculo la batteria del telefonino. Non puoi comprarti un telefonino per dire da 800 euro e dopo una settimana ti trovi la batteria a terra e non puoi più ricaricare, quindi vedrai che pare che la gente abbandonerà tutto di quella storia lì, a meno che non faccia una falsa batteria che va alimentata con l'attacco a accendi sigari e con lo stabilizzatore di tensione, allora sì che si può usare. Sì, ma perché sono tonti questi cinesi o giapponesi, cosa sono? Inglese, fa anche italiano, e sassarese fallo. Purtroppo l'inglese e il cinese basta, capito? Quindi non puoi farci niente. Ma comunque come apparati escono bene, li puoi anche aumentare le mic gain, anche nei portati addirittura, quindi aiutati tu. Vabbè. Vabbè, lo stesso. Faccio un attimo di bianco, arrivo subito. Matisio, eccomi qua. Matti, dimmi tu. Oh, Matisio. Tia, mi senti? Ari, aspetta un attimino. Matisio, dimmi tu. Allora, quando vai su Povere, con la freccetta devi schiacciare torna il coso delle... Con la freccetta vai avanti quando metti a 30, che c'è Povere. Con la freccetta devi andare avanti fino a che ti trova il coso di... adesso non mi so spiegare. Del coso. Ma ti si chiama? Dove c'è Povere. Comunque vai avanti con la freccia che c'è sul microfono. E se dove arrivo? No, lì ti dà l'affare, devi schiacciare dove il menu dove c'è Povere, schiacci il menu torna e ti dà il coso per la freccetta per cambiare. E sotto trovi l'affare che ti dice Love, Nidigi e HLS ti dà. Quel coso lì sono tre da cambiare, metti HLS, guarda a vedere. Marino, ma ti mai sei così basso? Ma radio è buona, ma sei troppo basso. Ah, quando tu vai se ne intenditi, non ti intende nessuno. Ti sto dando il coso a Bacchisio e poi vediamo. Vabbè, Bacchi, riuscito ci sei. Stiamo attaccando l'antenna. Dove? Ehi, a Bacchi. Beh, cosa è successo? Beh, cosa hai fatto? Passa sempre. Ah? Sono andato RPTT e poi non mi ricordo cosa. Allora, devi schiacciare il menu, vai su Oppo, poi vai su Povere e giri con la freccetta. Da Povere devi schiacciare il menu e poi ti dai il coso sotto e vai con la freccetta, vai. Fino a trovarlo lì e ti dà Medi, Love e HRI, una cosa del genere. Va, continua i numeri di coso, ti fermi a 30, poi con la freccetta fa 31, 32, 33, 34, non dà nulla. Ti fermi a 30, schiacci menu, schiacci. E cambia il coso, io vado sul menu, a 30 ti cambia, ti dà la cosa, la frequenza. No, schiacci nel menu a una parte devi schiacciare, guarda, perché c'è M, schiacci, lì appena appena schiaccialo e ti dà il coso, ti dà. Attento, Tore. E gli abbacchi. Adesso medio. Medio, metti con la freccetta, vai e metti H-I-G. Una cosa del genere. Sono andato, c'è scritto medio e mi sono fermo lì. No, mette, guarda che HG è il più alto. HG? HIG. Adesso vado. Da, medio, love HG. Aumentato la top. Appena aumentato. Comunque è più forte la radio adesso. Ma l'hai messo dove ti ho detto io? Prova la radio, prova, sentiamo come esce. Bacchisio, più forte sei adesso, Mari. Oh, aspetta, Bacchisio, Bacchi. Oh. Andà due. Non lo so, ma tu? Non lo so se ti copia. Aspetta che lo sto chiamando, Bacchisio. Non lo so dove sia andato. Il tuo vento è un bel pericoloso, Catta, sino a stanotte o domani ne abbiamo. E non ti ascoltano. Non ti ascoltava poco fa. Attenzione, Bacchisio. Oh, Sarrado. No, sono qua. Sei tu, Luca, non sto chiamando a te, sto chiamando a Bacchisio. Ah. Attenzione, Bacchisio. E non so cosa sia giustissimo. Se c'è in viaggio. Vabbè, ragazzi. Si entra, salutatemelo, ok, ci sentiamo, ciao Marino e ciao Luca, ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao Otto, sono Marino, ciao anche a Bacchisio, ciao a tutti, ciao. Tino, ci sei? Tino, mi ascolti? Hola. Chucucciù. Bugiardo. Paolaggio, tu sei tutto a posto. Hai capito bello bene, eh? Ho capito. Cosa per fare, hai capito bene? Io che parlavo in duplex. Però stai nescando. Dai. Oh, così, parliamo in duplex, dai. Adesso guarda quanto arrivo con questa radio. Guarda bene. E poi ti provo l'altra con una direttiva. Quanto sono così? Guarda quanto arrivo con questa radio. Adesso ti provo un'altra. Questa arriva? Addirittura. Vabbè, questo è un bobò, eh. Pompo, ci sei qua? Pompo! Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. Hola, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mi senti? Aspetta. Guarda, ce la fa, molte volte lo fa.